X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Nunzio Di Girolamo, 38 anni, beneventana, sposato con una figlia, Gea, laureata in legge, non avrebbe mai pensato di fare politica, ma l'avvocato poi entra in Forza Italia e diventa ministro dell'agricoltura nel governo Letta. Una brutta storia di registrazione la spinge alle dimissioni dopo una violenta campagna di stampa, senza peraltro aver ricevuto nessun avviso di garanzia. Ma lei dice: mi sono dimessa solo per difendere il mio onore. L'editore dell'Espresso Carlo De Benedetti così ha giudicato la copertina che l'attaccava. Da lettore questa copertina mi ha innervosito e poi ho telefonato al direttore e gli ho detto che secondo me era stato un errore. Allora, onorevole Di Girolamo, si sente ripagata? No, ma devo riconoscere a De Benedetti la capacità di saper dire abbiamo sbagliato. Ma rifarebbe la stessa scelta di dimettersi? Sì, sì, mille volte. Perché? Perché era l'unico modo per difendere la mia dignità, le istituzioni e anche la verità. Senta, questo è il passato comunque. Adesso c'è un presente difficile fatto di sconfitte e di divisioni. Berlusconi e Alfano se ne sono dette molte di tutti i generi e cattive. È solo effetto della campagna elettorale? Campagna elettorale, ma anche qualche rancore e dispiacere, diciamolo. Ecco, ma sul piano personale, secondo lei, ci sono strascichi insuperabili? No. Perché? Ma perché entrambi conoscono la politica e la sfida del centrodestra adesso è molto più forte dei personalismi. Poi guardi, Berlusconi è un uomo intelligente. Senta, per Berlusconi, allora, secondo lei, Alfano ha recuperato il quid? Ognuno c'ha il suo quid. Senta però cosa diceva Alfano. Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi idioti inutili. Idioti inutili! Da troppi inutili idioti! Adesso dice riuniamoci, quindi in politica si può dire tutto. Sempre. Ma io ho ricordi eccellenti del passato, Bossi, Berlusconi, Renzi e Bersani. Diciamo che in politica si rischia spesso di essere degli utili idioti. Utili, inutili che sia, siamo stati tutti in Forza Italia, quindi insomma guardiamo a domani. Senta, per ritrovarsi però bisogna avere un progetto comune, mi pare che ritrovarsi sia il leitmotiv. Per ora Berlusconi e Alfano però in comune sembrano avere una cosa sola, un progetto unico, favorire Renzi. Può ecco. Continuare? Credo che lo abbiano favorito abbastanza fino ad oggi. E può continuare così? No, e credo che nessuno nel centrodestra possa avere l'ambizione di essere l'inutile idiota di Renzi, almeno io assolutamente no. Senta Di Girolamo, Berlusconi, almeno con Renzi però, una cosa l'ha fatta, un accordo sulle riforme che a parte i dettagli era indispensabile. Lei è d'accordo su questo accordo? Sì, sono d'accordo e credo che riformare il paese sia essenziale. Se occorresse io farei le riforme anche col diavolo, nel parlare del diavolo mi riferisco a Grillo. Ah, ma reggerà l'accordo fra Renzi e Berlusconi? Non credo. Non crede? No. Perché? Ma perché le due strade si divideranno. Insomma, Alfano da delfino di Berlusconi a maggiordomo silenzioso di Renzi, ma è un passo avanti. Ah, Minoli, ma lei oggi è particolarmente cattivo? No, cattivo, è quello, vedo, parlo di quello che vedo, insomma. Che cosa ho ottenuto allora Alfano nell'accordo con Renzi? Ecco, questa mi sembra una domanda più giusta. Forse poco ad oggi, ma la vera domanda è: che cosa ha ottenuto il paese da Renzi? Cosa ha ottenuto? Tante bellissime promesse ad oggi a cui abbiamo partecipato, gli 80 euro, La fiducia, però ha ottenuto la fiducia del paese. Sì, ma c'è ancora tanto da fare. Vabbè, vincere è una grande responsabilità. Voi lo sapete, vincere e poi governare un'altra cosa. Esatto. Certo, certo comunque Alfano non ha ottenuto voti e se non fosse stato per l'UDC, lo dicono tutti, non avrebbe neanche fatto il quorum. Si può dire con chiarezza che ha perso, perché in Italia non perde mai nessuno. No, guardi, il centrodestra ha perso e questo dobbiamo dirlo con chiarezza, come ha vinto con chiarezza il Partito Democratico, anzi Renzi. Io però non ho passione per i conti della massaia, sebbene stimi le massaie, perché non vorrei trascorrere il resto dei miei anni e nel futuro a fare i conti dello 09, del 23, del 37. Vabbè, insomma, va bene, se senta, avremo qualche altra ambizione a destra. Va bene, comunque, lei intanto, per restare ai numeri noiosi, lei a Benevento ha fatto il 6,59, è un po' meglio della media nazionale, però Forza Italia ha fatto il 27, quindi ha perso anche lei, insomma. Beh, le ripeto, abbiamo perso tutti, in ogni caso per ciò che mi è accaduto, per quello che mi hanno fatto mi posso ritenere soddisfatta del risultato. Ecco, resta il fatto che l'analisi dei flussi ci dice che i delusi da Berlusconi o hanno votato Renzi o non hanno votato. Insomma, è Renzi che ha federato i moderati, non voi. Ma Renzi oggi occupa troppi spazi, centro, destra, sinistra. Se non stiamo attenti e non ci svegliamo, noi nel centrodestra siamo foderati da Renzi. Vuol dire che sono spazi vuoti. Senta, c'è una battaglia che era una battaglia totalmente vostra. L'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Adesso anche la Banca d'Italia ha detto che la TASI costerà più dell'IMU. Non mi sembra un gran successo. Ma in realtà costa di più nei comuni che hanno sperperato e che oggi devono coprire i propri buchi di bilancio, ma sono una minoranza rispetto alla maggioranza. Comunque il governo, me lo faccia dire chiaramente, sulla TASI ha fatto un gran pasticcio. Comunque quello che capiterà alla prima casa, alle sue tasse, non si capisce più, non lo capisce nessuno. Senta qua. Non si pagherà più l'IMU, ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà Taser come la pistola che dà l'elettroshock, ma Trise. Il fatto è che la Trise, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la Tari e la Tasi. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la Trise, dunque sia la Tari che la Tasi. Se siete un inquilino, pagate solo la Tari, ma anche una quota della Tasi. Se siete il padrone di casa, pagate la Tasi, ma non la Tari. Più IMU, si capisce, ma l'IMU raddoppiata la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Adesso ripetete. Insomma, mi sembra una bella sconfitta. Una sorta di scioglilingua insopportabile. Drammatico. Beh, è stato fatto un grande pasticcio. E devo dire che in questo Renzi purtroppo resta un uomo di sinistra e loro hanno questa ossessione di far pagare le tasse sulla casa. Sì, però, onorevole Di Girolamo, Alfano aveva anche un altro cavallo di battaglia. La battaglia contro per abbassare le tasse. Non c'è traccia di abbassamento di tasse. Ma i proprietari di prima casa non pagano l'equivalente dell'IMU e se noi non ci fossimo stati saremmo tornati al livello del governo Monti, eh? Vabbè, non è una risposta così convincente. In politica la verità va detta oppure no? Sempre, però purtroppo in politica va di moda l'ipocrisia. Lei ha sofferto, l'abbiamo detto, si è dimessa dal ministro per difendere la dignità e l'onore, ha detto lei, senza aver ricevuto neanche un avviso di garanzia. Si è sentita difesa dal segretario del suo partito? Senta, prima di rispondere, senta cosa ci ha detto Alfano qui. Nel governo Letta, il ministro Nunzia Di Girolamo del suo partito si è dimessa per difendere il suo onore senza aver ricevuto neanche un avviso di garanzia. Lei l'ha difesa poco, è pentito? Ma io non condivido per nulla il suo giudizio. Sono stato accanto a Nunzia durante il dibattito parlamentare e l'abbiamo difesa come un solo uomo tutti insieme perché sapevamo che era dalla parte giusta. Insomma, difesa come un solo uomo. Guardi, non mi faccia dire molto, io in quell'occasione mi sono sentita molto sola. La verità è che nelle grandi sofferenze resistono solo i grandi affetti. Bene, senta, dopo la sua uscita dal governo si è parlato molto del suo rientro in Forza Italia. È sempre all'ordine del giorno? L'ordine del giorno è riunificare il centrodestra. Quindi non è mai uscita, insomma. Ma dopo le elezioni l'ha sentito Berlusconi? Ah, ma lei oggi, oltre ad essere un po' monello, come direbbe mia figlia, è anche abbastanza curioso. Forse sì, forse no. Sì, l'avete sentito, mi dica cosa vi siete detti, fatti gli auguri, avete pianto insieme. Non lo dico a lei. E quindi lei comunque sta lavorando per la ricucitura, è così, questo si può dire? Io ho sempre lavorato e lavorerò per questo fino alla fine, anzi le devo dire che forse ho fallito quel giorno quando non sono riuscita ad evitare la rottura. Si dice che Berlusconi non vuole più sentir parlare di alcune persone, di Schifani, di Quagliarello, della Lorenzin. Risulta anche a lei questo? Bah, conoscendo Berlusconi, dubito che faccia la lista dei buoni e dei cattivi. Non la fa? Dubito. Quindi se si discute, si tratta o tutti o nessuno per rientrare o per riunirvi? Ma se si tratta si dovrebbero evitare dei veti ad personam. L'unità si fa sui programmi, non sulle liste di quelli graditi o sgraditi, premesso che ci sono da entrambe le parti, insomma. Ah, ecco. Ah, cioè, vuol dire che anche Berlusconi c'è i suoi sgraditi a sì. casa sua. Un nome no, non me lo fa. Degli sgraditi, no? Ah, ride. Vabbè, e basta. Oggi però solo Berlusconi può essere il federatore di un nuovo centrodestra alternativo a un Renzi pigliatutto. È così, no? Beh sì, è una questione anche di rapporti di forza. Ah, certo, ma alternativi su cosa? Su quali basi? Programmi, ideali, progetti. Il rinnovamento non può essere una guerra civile fra persone e nemmeno la riedizione di vecchie stantie formule già magari utilizzate dalla sinistra. E quindi andare oltre cosa vuol dire? Andare oltre è che mentre la sinistra oggi ha trovato un leader, noi dobbiamo costruire il partito. Anche con la Lega? Beh, se non si appiattisce sulle penne. Senta, ma Passera che si candida anche lui va bene oppure no? Devo dirle che non conosco il peso elettorale di Passera. Beh, anche lui non lo conosce ancora, non si è mai misurato. Senta, ma per continuare sulle cose fatte o non fatte, Alfano diceva: non saremo un paese gruviera dove entra chi vuole. In realtà da ottobre sono entrati più di 30.000 stranieri. Anche qui è un bel problema, un bel fallimento, tutto sommato. Ma il tema dell'immigrazione è un tema molto serio e credo anche preoccupante. Su questo l'Europa deve dire parole chiare e dire dove sta, da quale parte sta, perché l'Italia ha il dovere dell'accoglienza ma anche l'obbligo di controllare i flussi. Difficile da soli, impossibile. Impossibile se l'Europa non ci mette la faccia e non solo la faccia. Senta, comunque, restiamo a noi. IMU no, abbiamo detto. Tasse abbassate no. Immigrati sempre di più. Risultato elettorale infelice. Si sta al governo solo per le poltrone, allora? Lo dice a me che la poltrona l'ho mollata? No, però, insomma... E ricordo anche che il Presidente del Consiglio resta Renzi. Senta, onorevole Di Girò, comunque, per riprogettare il centrodestra in modo credibile, non sarebbe meglio uscire dal governo, dare l'appoggio esterno su singole proposte per dimostrare anche un'autonomia dalle poltrone? Ma noi siamo rimasti a tempo in questo governo, è veramente un contratto a tempo determinato, solo per fare quelle 4-5 misure che consentiranno all'Italia di essere messa in sicurezza. Poi ognuno deve tornare a casa sua e io penso che la differenza fra la vecchia e la nuova politica sia proprio il fatto che non si mischi il destino dell'Italia e del paese con quello delle proprie coalizioni. Piuttosto mi chiedo perché non torna Forza Italia al governo. Visto che sta facendo le riforme con Renzi. Senta, da Ministro dell'Agricoltura, lei ha frequentato molto Bruxelles. Cosa deve fare l'Italia in concreto per contare? Ma in realtà non è facile, deve guidare i processi e non si deve far più guidare. I vincoli di Maastricht sono ormai superati e noi non possiamo continuare a guardare l'Europa con gli occhi di 20 anni fa. Dobbiamo andare oltre. Ecco, l'agricoltura copre il 40% del bilancio europeo. Tutto quasi a favore di Francia, Germania e Inghilterra. È lì che bisogna perché picchiare i pugni veramente. Sì, perché la Germania ha fatto sempre molto asse con Francia e Inghilterra. Per fortuna adesso le europee sono andate in una maniera differente. Comunque noi abbiamo chiuso una politica agricola comune di 52 miliardi di euro portati qui in Italia. Nel futuro bisogna evitare che quest'asse si ripeta. Senta, il nuovo ministro dell'agricoltura, Martina, si muove bene secondo lei o no? Ma mi sembra che si muova molto meglio in Expo. Comunque questa domanda, se lei la facesse agli agricoltori che sono seri e non perdonano, forse darebbero una risposta più chiara. Ma perché dice Expo? Expo? Cosa bisogna fare sull'Expo? Perché Expo Renzi ha fatto un'ottima cosa, dare il commissariamento a Cantone, che è una persona seria. Ora però gli dovranno dare più poteri. Cioè io mi chiedo, perché a Palazzo Chigi continuano a nicchiare sui contratti che sono oggetto di indagine e non prevedono il commissariamento dei singoli contratti? Ma allude? Ma sottolineo delle verità. Senza, Renzi vuole cambiare l'Italia per cambiare l'Europa, lo dice sempre. Il centrodestra però può solo guardare e applaudire se resta diviso, fare altro. Infatti faremo la comparsa per 20 anni, come le dicevo, se il centrodestra non si riunifica. Ma qualcuno dice che Alfano in queste condizioni ha una unica alternativa, lei ne ha detta anche un'altra, entrare nel PD e fare una corrente moderata del renzismo. È una provocazione? Di più, un'ipotesi di terzo tipo, cioè irrealizzabile, almeno per me, guardi, sarei d'altra parte. Senta, beh, ma penso che anche Alfano non l'ha Infatti, ma assolutamente. Ma non ne sentivo parlare, insomma, visto che stanno lì a guardare. Irrealizzabile. Senta, anche sulla giustizia, Renzi dice cose nuove per la sinistra. Per esempio, che l'avviso di garanzia non è una condanna, ma una garanzia per l'indagato. È una rivoluzione per la sinistra, questo? No? Sicuramente. Mi auguro solo che valga per tutti, cioè per quelli di destra e per quelli di sinistra. Le dico che la doppia morale però va ancora di moda nel PD. Sì, eh? Sì, non da parte di Renzi, ma... Allude anche qua. Beh. Avrei tanto da dire. Sì, non vuole dire. No, ce n'è ancora un po' di tempo. Lei, l'abbiamo detto e ripetuto, ha subito una grande violenza mediatica. Cosa le resta di quella vicenda? Dolore e amarezza, ma sono qui con la mia dignità difesa. Senta, ma ha capito qualcosa che non sapeva dell'animo umano in quella vicenda lì? Beh, che ci fosse cattiveria, invidia e ambizione che guida troppi, purtroppo sì, però ho constatato di persona la miseria dell'animo umano che a volte per fare carriera è pronto a distruggere gli altri. Senta, onorevole Di Girolamo, le faccio un'ultima domanda. Lei, ho letto, è una grande fan di Ligabue. Che canzone ama di più? Due, Piccola stella senza cielo e Tu sei lei. Perché? Perché parla un po' di me e poi mi ricorda anni passati. Ah. Ma una vita da mediano, lei la dedicherebbe ad Alfano? Gli dedicherei Ancora in piedi. E a Berlusconi una dedica? A Berlusconi ne dedicherei tante, oggi forse balliamo sul mondo. Grazie. A lei. Mix 24. Allora Mario, che titolo faresti del faccia a faccia di Girolamo? Io ce l'ho. Semplice, secco, dolce, risoluto. E dai, l'Annunziata. Pietrangelo, tu? Siamo i co-co-co del governo Renzi. Questa è l'annunciazione, più che altro. Vabbè, giusto, è rimasta con noi anche come Tremonti l'altra volta, anche Nunzia Di Girolamo. Canzone. Parlami dell'universo, di un codice stellare che morire non può, di anime in continuo mutamento e abbracci nucleari estesi nell'immensità, dove tu mi stai aspettando. Questa volta metropolitana d'amore, eh? Questa volta in metropolitana è successo questo. Cornelio, che è il re invisibile della stazione Cornelia della metropolitana di Roma, se ne partì un giorno per l'universo, andò a cercarsi un'esistenza tutta persa per non avere mai avuto accanto a sé la principessa Laurentina, l'altra fermata della metropolitana, che adesso è stretta nella direzione di un ruolo che è quello del traffico. E Cornelio dunque, andando per l'universo, fece incetta di anni, mesi, giorni e perfino di scioperi, e con tutto quel tempo messo a dimora costruì un regno di felicità per sé e la principessa Laurentina. Mamma mia, mamma mia, cioè, è una cosa. Abbiamo perso Buttafuoco. Cornelio, Cornelio dalle mie parti evoca Cerva Primavera. Perché non hai studiato a fondo la letteratura latina, la nostra radice, e ti sei perso con quel Financial Times. Tutto qua. Oltretutto ricordati, come dice il maestro, non ti posso dire come dice il maestro, il giorno della fine non ti servirà l'inglese. Boh. Hai visto? Però born. Intanto con le tue bolle dove andiamo? Bolle. Senti, senti. Pezzo leggendario degli ABBA, ovviamente. E vai. Non c'è bisogno neanche di citare il titolo. Draghi è al bivio. Draghi è Mario, è un italiano, è l'uomo che guida la BCE, uno degli uomini più potenti del mondo. I titoli dei giornali oggi sono sulla disoccupazione, senza voler criticare, perché ognuno fa il suo mestiere bene, però c'era un dato più importante, secondo me, dal punto di vista della prospettiva futura, che poi significa anche la prospettiva della ripresa, e cioè il dato sull'inflazione, che è bassissima, certo. Registrata allo 0,5. Andiamo verso la deflazione? Sì, esatto, attesa allo 0,6, quindi al di sotto addirittura delle aspettative degli analisti. Insomma, adesso qua devono decidere. La BCE ha rinviato settimana per settimana, diciamo, quale la decisione, la strategia. Insomma, sì. Ora faranno probabilmente un quantitative easing, diciamo, cioè un acquisto di titoli. Non si sa ancora di che natura, come, eccetera. Qua le vie sono le più diverse. E una cosa è certa, siamo ben al di sotto del target della BCE sull'inflazione, che era 2 o poco sotto. Infatti. E stiamo a 0,5. L'economia non va bene, la crescita è veramente risibile. Per paesi come l'Italia addirittura resta zero, con aumento poi nell'economia reale, appunto, della disoccupazione. Le cose possibili che può decidere Draghi: tassi a zero, molto probabile. Ma funzionerà? Questa è la domanda, perché sai, non c'è la prova. E come dicono gli inglesi, buttafuoco mi perdonerà, the proof is in the pudding. La prova è nel budino, quando ci metti il dito e poi l'assaggi per vedere se è buona. Una cosa è certa: non fare niente non serve a niente. E siccome abbiamo bisogno di provarci, dobbiamo provare. Speriamo che provi. Intanto io vedo la Girolamo che ha cambiato faccia leggendo delle notizie sul giornale. Non so perché, cos'è che l'ha sconvolta, onorevole? Pagina 6 del giornale. Ah sì, cosa l'ha colpita molto? Questo titolo: NCD adesso flirta confini all'insaputa di Alfano. È vero o no? Ma proprio no. Anche perché, scusate. Cioè, non lo so, perché se all'insaputa di Alfano, allora l'ho saputa mia. Tua. Posso? Mia sicuramente, perché tutto questo sarebbe per impedire il ritorno con Berlusconi, quindi. Posso? Sì. Sì. Posso? Sì. Perché poi flirtare con Gianfranco Fini presuppone l'istituzione di un tavolo piuttosto complicato. Sì, che è quello di una seduta spiritica. A parte, devo trovare uno che flirta con Gianfranco Fini. Su questo si apre un capitolo. Volete che i vostri pronipoti parlino cinese? Il dollaro sta per sparire. C'è stato l'impero romano, poi l'Europa, poi questo. Noi. Questa cosa con auto, stereo e hula hoop. E abbiamo mandato tutto nella merda. Allora, questo è il bel film sul fallimento di Lehman Brothers. Sì. E c'è una cosa che secondo me è stupenda dal mio punto di vista, che è quello di un umile cronista, uno che va in giro col taccuino. Ma secondo voi di che cosa hanno parlato Obama e Hollande? Pensate che abbiano parlato dell'Ucraina? Sì, sì, a margine. Della grande politica europea? Sì, sì, sì, anche di Renzi. Di Renzi. Sì, figuriamoci. Allora, il vero piatto forte della discussione era la multona che il governo degli Stati Uniti pensa di infliggere a BNP Paribas. Multona di 10 miliardi di dollari. Segnate bene sul vostro taccuino, tenete a mente, 10 miliardi di dollari. Tanta roba che potrebbe mettere a rischio il bilancio della principale banca della Francia. Perché questa multa? Perché dal 2002 al 2009, se non erro, ma le date hanno poca importanza, conta il fatto, BNP è accusata di aver fatto transazioni in dollari proibite con paesi come l'Iran, il Sudan, Cuba e altri. Secondo il governo si tratta di una multona, cioè molto esagerato. È in corso un'azione di lobbying molto forte da parte dell'esecutivo francese tramite il ministro delle finanze. Insomma, sempre Sapin, soldi, e Fabius, soldi, soldi. Beh, money is life. Bello. Il denaro è vita. Bello, mi piace sentirti parlare nella lingua demo-plutocratese. Sei un incanto. Vuoi che ti parli in sardo? Senti, facciamo una quota rosa. Facciamo la quota rosa, vai Sara. Quando sei qui con me, Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me. Per supportare Mario, vado. È una canzone bellissima di Gino Paoli, che per l'appunto si immagina di essere immerso nella natura, tra alberi e cielo, per vivere le sue emozioni. Ecco, ma se la natura viene evocata nelle canzoni, nelle poesie, nella nostra fantasia, perché non la difendiamo? Mentre in Giappone salpano le navi dei cacciatori di balene, fregandosene del divieto dell'ONU di cacciare per l'appunto le balene in via di estinzione, in Italia oggi c'è una buona notizia. Anzi, c'è un lumino di speranza che si è acceso. Sono tornate le lucciole a illuminare la notte. Ah, hai capito qua. L'hai capito? Mario, tu hai gli occhiali, non fai testo. Non ci sono sempre state le lucciole. Ora, balene, lucciole, io non ce la faccio. Senti, sai. Prova ad andare avanti. Ma qui ci vuole un salamino, va? Vuole un salamino. Salamini di poesia oggi, dopo Sandro Bondi, finalmente Gasparri. Allora, dopo l'intimismo, tutti in piedi, dopo l'intimismo poetico dell'ex ministro per i beni culturali, adesso Gasparri si mette alla prova con un Trilussa meraviglioso, cioè proprio nel solco di Trilussa. Lui, nella guerra che ormai coinvolge le truppe di ciò che fu il glorioso esercito di Silvio Berlusconi, si scatena, cara Nunzia, proprio contro NCD, con questi versi, e complici sono stati i nostri dirimpettai in Rai di Un giorno da pecora, dove così si è esibito, però adesso lo interpreto io, provo a interpretarlo. All'inferno la discesa vi ha evitato solo Cesa, con Alfano e con Sacconi eravate tra i tizzoni, né vi avrebbe mai salvato di Schifani il parentato. Fabrizio D'Esposito sul Fatto ha reclamato giustamente la pubblicazione di un meridiano Mondadori. Io farei così. Prima c'è Fabio Volo. Vai. Io farei così. Adesso proponiamo Gassman che prende Trilussa dal vivo. C'è un verso che mi si attaglia quando dice: sto con la Lega e chiudo bottega. Dopodiché approfittiamo della presenza di Nunzia. Dopo Gassman lei risponderà per le rime a Gasparri. Ascoltiamo, certo. Gassman. Un povero ragno, parlando col baco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Bisogna aprir gli occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone. Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo. Va via, disse il ragno, se no me te magno. Va via che te strozzo, strillò il bagarozzo. Erbaco, qua, disse, l'affare comincia a imbrogliasse, è meglio a far sciopero, è meglio a squagliasse. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la Lega per chi se ne frega. E chiuse bottega. Stando con la Lega. Infatti Salvini ha fatto una sua bella opa nel mondo del centrodestra. Allora, Nunzia, a te la parola. Come rispondi a Gasparri? Se Gasparri se ne va, nessuno piangerà. Rima secca, quasi secca, epigramma. Alessandro ci scrive: come vi invidio che siete lì con la Di Girolamo, c'hai dei fan. Chi? Alessandro. Alessandro, hai capito? Ma la domanda è: gli piace o no? Perché no, così è un po'. Poi il vero problema. Ma il vero problema, Sì, ma perché? Il vero problema è che poi non si se ne andrà. Quello è un grosso problema. Con Gasparri che piangerà. Io ho il cuore che sanguina. Sara? E niente, le lucciole hanno scatenato un putiferio. Allora, un non firmato dice: il cielo in una stanza, vabbè, per una volta, il cielo in una stanza parla del soffitto di un bordello, altro che natura. E appunto le lucciole, scusate, ma sono infatti perfette. È per quello che ho detto che ci sono perché... sempre state. Non avevi capito, l'hai usato a sproposito. No, volevo rispondere al non firmato, rispondere. Va bene, dunque... Indro Montanelli commenta i giorni convulsi per Roma che vanno tra l'armistizio del 43 fino al 4 giugno del 44 con un giudizio preciso sull'operato del re. Sentite, perché poi la seconda ora è dedicata a questo. E lui doveva morire, lui doveva andare incontro ai tedeschi col tricolore, salvava la monarchia. La monarchia o si salvava o cadeva con onore. E i re ci sono per questo. I re ci sono per le fregnacce, cioè l'onore, la dignità. Devono essere maestri di questo. Per il resto oramai i re sono inutili, ma per questo sono ancora utili. Non fu all'altezza della sua missione, della sua funzione. Ecco, nella seconda ora Marina Milone racconta la storia di Roma città aperta. Bolle. Per fare una rivoluzione bisogna essere in tanti. Dice, beh, però voi a Roma siete 6 milioni, a Roma 6 milioni? Torti, calabresi e i napoletani, a Roma siamo 4 gatti. Ma se noi a Roma fossimo milioni, se noi a Roma fossimo miliardi come i cinesi, la sapremmo fare. Miliardi come i cinesi, questo è uno spettacolo di Brignano che parla della Cina. Abbiamo preso un frammento dove lega Roma e Pechino, eccetera, però io tornerei su Tiananmen 25 anni dopo. Se ne parla moltissimo nella stampa estera, sui media esteri, poco sui nostri giornali e telegiornali, vabbè, ma pazienza, vabbè, questo non ce ne faremo una ragione. E mentre là fuori c'è un grande dibattito, segnalo che per Foreign Policy l'anniversario è un'occasione per Obama per riaffermare la battaglia degli Stati Uniti sui diritti umani. Segnalo anche che loro hanno la pena di morte in casa, quindi certo, insomma è un po' una piccola contraddizione. Sì. Hai notato come sta scivolando il nostro americano? No, io sono sta cambiando. Sono fascino dell'Eurasia, sta crescendo. È per amore dell'America che segnalo le evidenti contraddizioni. Va bene. Quando hai una fidanzata ha avuto però la lingua dell'adultero, però... vorrei dire. E dice, hai una fidanzata e dici ti amo, però c'ho un'altra per, come dire, tenere vivo il nostro amore. Vai avanti, allora, la tua bolla. Segnalo che a Hong Kong ci sarà la manifestazione per ricordare le vittime di Tiananmen, in Cina invece è tutto proibito. Segnalo che Google è stato bloccato, ma la storia che davvero mi ha colpito è quella di Xiao Qinhua, spero di averlo pronunciato bene, il cinese non è il mio forte, che è uno degli studenti leader della protesta in piazza 25 anni fa. Te la faccio breve. Oggi è un influente personaggio della finanza di Pechino, ha un patrimonio personale di 2 miliardi di dollari, è legatissimo al governo. Sì. Allora, mi ricorda qualcuno di casa nostra, con il popolo da giovane e con il portafoglio in tasca proprio da grande. Mm. Ognuno tragga le sue conclusioni. Canzoniere! Prima della lettura un aiuto agli ascoltatori, agli scecchi, ai ciucci, agli asinelli, ai somarelli. L'autore è Tolstoi, cercate di indovinare almeno il titolo. Ero tornato a casa per i campi, si era nel mezzo dell'estate, aveva raccolto l'erba e si preparavano a mietere. C'è un'incantevole varietà di fiori in quel periodo dell'anno, rossi, bianchi, rosa, odorosi, teneri trifogli, insolenti margheritine, mamano, mama bianco latte con il centro giallo scuro e il loro intenso puzzo di fradicio. Ah. Mix 24. Mario, ci dai le ultimissime? Ma più che ultimissime, forse è il caso di fare giusto un flash sui 35 arresti chiesti a Venezia, sindaco compreso, addirittura per un parlamentare c'è la richiesta di arresto come Galan, e l'indagine sugli appalti del MOSE è partita 3 anni fa, già nel 2013 vi furono delle ordinanze di custodia cautelare, non so cosa dobbiamo dire, prima l'Expo, poi il MOSE, cioè non c'è grande lavoro, grande infrastruttura che non abbia questi fenomeni. Grandi lavori sono tangentati. Non penso neanche che ci sia a questo punto, voglio dire, non è che la magistratura si sono messi d'accordo e hanno detto su tutti i grandi lavori facciamo scattare delle grandi inchieste. No. È evidente che c'è qualcosa che non funziona. Su. Molto, molto che non funziona. Proviamo a sentire l'ultimo salamino di Pietrangelo. Telefonato. Ogni strega è una fata. ogni cattivo è scrigno di bellezza e di ragioni tutte buonissime. Questa è la morale di Maleficent, il nuovo Disney dove Angelina Jolie, di ipnotica bellezza, conferma la supremazia della strega rispetto a ogni stucchevole fatina. Ma valga su tutto il saggio molto bello di Stefano Poggi, La vera storia della regina di Biancaneve, un libro edito da Raffaello Cortina, dove la crudele matrigna di Biancaneve altro non è che Uta, la regina della selva turingia, musa dello spirito germanico. E così Malefica, nel nuovo film, non è altro, nelle ali, nelle corna che la rendono turrita, la vittoriosa Nike, quindi il presagio di Atena, alla faccia dei buoni, è la Weltanschauung che cancella l'utopia. Ok, dall'inglese al tedesco. Professor Simonelli, professor Simonelli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il canone ieri sera dov'era? Visto che siamo nel mezzo della battaglia più tremenda sulla Rai, e lei questo canone che non lo trova mai sulla Rai, come la mettiamo? Difatti l'ho trovato su Sky Arte. Proprio oggi? Sì, perché alle 22 su Sky Arte ieri sera è andata in onda una puntata di una serie, di un programma che si chiama Book Show. Siamo in area canzoniere, allora, sì. Come uno dei grandi... Ma lei l'ha indovinato il canzoniere di oggi? Ma sa che non l'ho indovinato? No, perché quando lo diciamo lei dice che lo sapeva. Caucaso, Caucaso, no, un altro aiuto. Adesso. Avanti. Allora, torniamo ai libri però, perché Book Show è un programma di libri. Sì, e lei sa che il servizio pubblico da sempre, fin dalle sue origini, si è occupato di promuovere... Ma guardi che c'era Ballarò ieri sera servizio pubblico era su Ballarò. Sa che su Floris queste cose, fauna. Su questa ripetizione all'infinito del dibattito politico ho sempre dei grossi dubbi, preferisco proprio rifugiarmi lì, sono rifugiato a Bergamo, perché questo programma ha un'originalità, affida a un artista, un attore, ieri sera era Alessio Boni, un discorso sulle sue letture legate alla sua città. Quindi Alessio Boni si aggirava per Bergamo e faceva molte cose, parlava delle letture della sua vita, ovviamente legate ad alcuni monumenti della città, ad alcuni posti del cuore. Poi parlava delle letture della gente, faceva un quiz alla buttafuoco. Insomma, facciamola corta. C'è qualcuno? Andrea da Milano. Andrea? Sì. Andrea? Sì. Pronto? E allora? Shazim Murad. Giusto! Bravo! Petrinelli, ma lei dov'è? L'onore dei combattenti del Caucaso. Dov'è lei? Dov'è lei? Grandissimi. Dov'è? Sono di Milano. No, dov'è in questo momento? Sono in macchina e sto viaggiando. E dove sta andando? Sto andando in ufficio. In ufficio? Ma che lavoro fa? Mi fatti su, no? Vendo acciaio. Vendi acciaio. La Di Girolamo dice che mi devo fare i fatti. Ragazzi, vabbè, vendi allora acciaio. Allora la saluto. Non russo. Ma no. Il compagno Putin la colpirà con le dure sanzioni di Mosca. Grazie, ha vinto il nostro libro. E allora professore, chiuda. Allora, siccome vedo che questa cosa della lettura non vi convince non tanto. I libri in TV non funzionano. Però lui c'ha una voce bellissima. C'erano due Alessio film buono. Assolutamente di attualità. Uno si chiama La classe, un film di Canté francese che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes qualche anno fa. E siccome è tempo di scrutini nelle scuole, la vita dei professori e degli allievi in Francia in questo film è molto interessante. Infine, molto tardi, verso l'una di notte, 20 secondi, professore. Febbre a 90, il film di David Evans, il più bel film sul calcio, tratto da un romanzo di Orbi, per prepararsi degnamente ai mondiali di calcio, certo. Credo questo film bisognava assolutamente vederlo. E per chiudere un'intervista fatta da Sara Tardelli a Marco Palvetti di Gomorra, che in Gomorra interpreta il boss Salvatore Conte. Marco Palvetti in Gomorra, la serie che sta facendo incetta di ascolti su Sky Atlantic, interpreti il boss Salvatore Conte. Chi è? Ce lo racconti? È un osservatore, un molto curioso, senza scrupoli. È un boss sulla Trentina che si contrappone al boss dell'altro clan, molto più vecchio di lui. Chiaramente lui sente che è arrivato il momento di cambiare i vertici del sistema. E quindi, ecco, comincia questa guerra, Pietro Savastà. Lui è un personaggio anche molto religioso. E l'attaccamento alla famiglia, insieme alla madre. Alla madre, rendono ancora sfuggente e misterioso questo personaggio. Qualcosa. Ma il tuo personaggio ci sarà in tutta la serie? Sì, poi lo seguiremo pian piano, chiaramente adesso non vi posso raccontare tanto. I diritti della serie Gomorra sono stati già venduti appunto in 40 paesi. Da napoletano, tu non temi che l'immagine di Napoli possa essere rovinata nel mondo accomunandola a Gomorra, cioè a dei luoghi dove regna l'illegalità? No, io credo che portare all'attenzione di una realtà difficile di un territorio attraverso appunto una narrazione di grande impatto come quella seriale, io credo che rappresenta un aiuto per la comunità e di cui la comunità può beneficiare. Gomorra, l'abbiamo detto, è un prodotto di altissima qualità, ma secondo te cosa c'è di diverso rispetto alle altre serie televisive? C'è intelligenza, c'è attenzione e quindi di conseguenza c'è qualità. Questo è quello che a mio avviso identifica maggiormente questa serie. Qua in Italia forse non siamo abituati a questo tipo di prodotti, a parte, che ne so, romanzo criminale. E quindi questo secondo me deve essere un inizio per continuare ad andare in questa strada. Direzione. Recitare nel proprio dialetto, quanto arricchisce l'interpretazione di un personaggio? È importante che vai a recuperare in maniera radicale delle sensazioni, quindi è come se tornassi un po' lì a vivere dove sei nato e quindi recuperi determinate sensazioni, determinate emozioni in una maniera quasi primordiale. Ecco. Marco, ci sono state delle scene che tu hai trovato particolarmente difficili da girare? Magari può succedere, per esempio, un giorno ti capita una scena che per difficoltà organizzative e quant'altro, magari puoi girare una sola volta, quindi tanta preparazione per un unico shock. Questo mi ha emozionato tanto. Tu sei un attore di teatro anche, ed è proprio al San Carlo, Marco, dove ti ho visto recitare in 10 storie proprio così, uno spettacolo contro la camorra. Ma recitare la parte di un boss cattivo ogni tanto ti dà fastidio? Io da attore prendo un personaggio del genere, me lo ritrovo tra le mani ed è bello. Perché? Perché mi dà la possibilità di scoprire tante cose che magari nella mia vita reale, ecco, sono distanti anni luce da me. Ma da spettatore io dico, diavolo, non vorrei mai essere come questo personaggio che interpreto. Senti, abbiamo detto anche prima che ti vedranno in tutto il mondo. Hai già la valigia pronta? Diciamo che non smetto mai di riempirla. E ora dire, beh, mi vedranno in tutto il mondo, bene, mi fa ancora più piacere il fatto che siamo a rappresentare l'Italia in tutto il mondo. Oggi, a 70 anni, da quel 4 giugno del 44, ripercorriamo la storia di una città, Roma. Attraverso i testimoni e gli audio originali dell'epoca, raccontiamo quei giorni nella capitale devastata dalla guerra. La puntata è di Aldo Zappalà ed è a cura di Marina Milone. Pubblicità!